ancor ne ascolterò. Non vorrei. Che serve? Se la turbo e la prego perdonare. Voi mi fate penare. Son curioso, cosa volete? Dorina si morina. E che per questo? Ed io fanciulla ad asservirli arrestò. Anche per voi verrà. Da morire con cuore sono in età. Dorina non ha niente di più di me. Se si marita lei, io no, perché... Quando si vuol marito, un qualche buon partito che capiti s'aspetta. Se fosse una civetta come Dorina, l'avrei trovato. Signore fattor garbato, so tutto. Visto che lei si dichiara tua amante di colei. Io? Ti weiß wirklich alles. In disparte ho sentito ed ho veduto. Ma... sono una ragazza caprone, non lo dirò a nessuno, ma con un patto che mi faccia giovane, perché zia zitta, e mi sposo con lui, che a nome... Vi prometto di farlo. Ma non basta, o fu che mi fate voi la sicurezza, che sarà tutto mio. La cosa è un po' difficile, peraltro è Titta un buon ragazzo e credo sarà fedele, ma in ogni caso se fosse di cambiar volenteroso non sarà poi con voi sì rigoroso. Almeno che siamo i patti reciproci e discreti, a voi mi racconto, mi impegno di tacere quel confesso. E se bisogna ancora, v'aiuterò. Chissà che non mi valga di voi, lignetta mia. Dice il proverbio, una man lava l'altra, e tutte e due lavano il signor sì. Onde ancora fra noi fare così? Thank you. mescolarsi conviene con prudenza. Ne avrei mai creduto che Livietta sapesse i fatti miei. Nascosta si sarà fra queste porte. Ah, queste donne sono pure accorte. E ben, Masotto, e ben, che risposta mi date? Signor, non dubitate, lo prometto e lo giuro, Mingone non l'avrà, state sicuro. Sarà dunque ditta, il suo rivale non l'avrà certo, ma voi lascio tirar la conseguenza poi. Che dirà la contessa? Questa volta non la superare, certo, non può per darmi vanto, ma forse Mingone l'avria sposata, se Odorina l'avessi sconsigliata. Masotto un dì vedrà quanto grato io gli sia. Vostra volontà! Masotto! Mia signora! Ben, si è acceso ancora! Dirò! Con sua licenza, per questa parte non stia più dubbiosa, che certo Titta non l'avrai sposa. Dunque l'avrà Mingone. Non saprei, lascio tirar la conseguenza a lei. O mi andò la faccenda? In due parole, Dorino persuato, per Titta disperato il caso. Bravo davvero! Ma da certo, uomini come me ve ne son pochi, ma la testa davver convien che giochi. Che dice? È disperata. Ho piacere che la sia mortificata. Ora non parla più! Fra se stesso delira! E si vede negli occhi e fuoco e l'ira! D'accordo! La mi comandi! Come dissi, ogni effetto dotale che portò la contessa in questa casa. Preparatemi, conti! Quando comanderà saranno pronti! Scusate! Nel contratto va ad essere un patto per cui nel caso di restituzione si andrà a considerare i frutti ancora. Vaderò, sì signora. Poi penseremo a sciogliere il matrimonio. Liberato sarò tutto il demonio. Perdonio, di grazia, perché tanta rovina? Come può più fedele? Muori alla morte. Il marito gentile. Bella consorte. Eppure farmi vedere che lontani non son dal far la pace. È sempre sdegnoso. Compatibili o sozze, son gelosa. Via! S'accosti un poco. Oh, come stanno? La prima non sarò. Da bravo, padron mio. Non voglio essere il primo, nemmeno io. Un pochino alla volta, un pochino per uno. Vi è un po' di retrosia. Con licenza, signori, anderò via. Quando mi piace servir. Quando mi chiama costato tantissimo, verrò a servir, verrò, verrò a servir. Ma promuovo le liti e queste liti ad essere eterne dal mio canto son finite adesso e per me sono pronta a farli stesso dunque pace consorte e non più guerra pace marito mio contenti io sono e son contenta anch'io. Signori, se comandano il desinare il lesto, ditele vieta chi aspetti. Io sono presto. Ma se comanda il conte? Ah no, contessa mia. Quel che volete voi? Quel che a voi piace. Oh, che prodigio! Sono ritornati in pace. Sentite, da qui non si, non è stati a turbare la nostra quiete. L'acqua con voi siede che si grida fra noi, ma in avvenire non si griderà più, certo sicuro. Io le disse, signori, io non procuro. Preparatevi dunque, se zia dura e tra scuse e tra ragioni, la man disposa a porre no, cara consorte, la cosa non va bene. E sposi il giardiniero non contiene. Uffe, tornando a capo. Il vostro ditta certo lo sposerà. Neanche il vostro mingone in verità. Oh, che vostra salgostia, sì. La ragione mia dei privanelli. Questa bestia chi si può tenere? Signore! Hai capito? La prego, spiegato. Cittano tu hai sposa, non può schiamarsi. Oh, da sposare il mingone. Signora sposa, dove il piacere, dove l'amore ito? Dove il mondo, l'indolce del marito? Thank you. cagion vostra. Se si creda, signor, per cagion mia, datemi la licenza, anderò via. Ferme, voi licenziata, andatevene pur, ero sposata. Ma perché mi volete obbligare a sposarmi? Se volessi viver sempre sola. Ho data la parola, voi avete promesso d'accordarlo. E nascoste la sposa, e gran parla. Ma io, signor mio caro, vi dico ogni fatto, un dirò tanto fatto. Impertinente, così meco si parla. Ora sono all'interno e vuole sfruttarla. Dita e dita, signor, sei disposta ora qui a maritarti? Sì, signore. Ma io non vo' sposarti. Pronta sempre mio cor le voi sue, ma questa cosa sarà fare due. Orina in mia presenza porgi a dita la man. Sorresto in mia presenza dalla mano lei. Or su, padroni miei, sapete cosa c'è? La festa non si fa senza di me. Lo dico apertamente, che per ora non ne voglio sapere niente. Come c'entrate voi? Voi che mi insegnavi a legar le figli in tal maniera? Quel briton di mincone in bella sfera. Io non parlo, signore. Anch'io sto zitto. Così foste un lesso e l'altro un fritto. L'ho detto, lo ridico e lo dirò, fino a che fiato avrò. Con alcun di costor non voglio legarmi, e se di maritarmi avrò desio, voglio farlo, signori, a modo mio. E disporzala con roba da stimbo. Hürmann, kriegst du Dorina, schleich sie die Zähne aus. Mi vuol scannare, costui quasi una sposi. E Mario, tanto di me presente, se ardirai di parlare, non dico niente. Ascoltami, può darsi che l'interesse valia a vincere Dorina. le darò 100 rocchie. Buono, buono. E dopo saran tue. Contento io sono. Du avernisch a Wurm, gleich mach ich dich platt. Mi vuo ammazzar, mi dice. Temerario, sotto un baston se fari, morirai prima tu. Non temere, signor, non parlo più. Chissà, le 100 doppie potrebbero alitarla. Io son pronto a sposarla ogni or che il comandate. Titta, Herman. Du kriegst uns in die Fresse. In die Fresse? Che dite? Io non parlare. Maledetto costui, non tace mai. Via con questo palo. La sposa rosignore, la prenderò di cuore, la prenderò di cuore, se vuoi la dare a me. E ben che cosa c'è? E ben che cosa c'è? Le 100 da piegare, le 100 da piegare, e dice mi vuol dare. Sarà roba mia, in pace e allegria. Sta zitto, maledetto, sta zitto, maledetto. In pace e allegria, e la potrò goder. Costui non vuol tacer, non vuol tacer. Costui non vuol tacer, costui non vuol tacer. Non vuol tacer, non vuol tacer. La sposa rosignore, prenderò il cuore, se voi la date a me, se voi la date a me. E ben che cosa c'è, che cosa c'è? Le 100 doppie care, care. Dice mi vuol dare, saranno roba mia, in pace in allegria, in pace in allegria. Sta zitto maledetto, sta zitto maledetto, maledetto. In pace in allegria, e la potrò goder, le 100 doppie care. Sarà la roba mia, sta zitto maledetto, sta zitto maledetto. In pace e in allegria me la potrò coder. No, che la tauga che spenta, c'è ma out! Costui non vuol tacer, non vuol tacer, costui non vuol tacer, costui non vuol tacer, non vuol tacer, non vuol tacer. Brickman, vattene tosto da casa mia. Manno, licenziare non ti vuo. A me soggetto e freni ad obbedisci a tuo dispetto. Sposa sarà di dittatorina cameriera, e tu se di fiatar solo ardirai tutto lo sdegno mio tu proverai. Thank you. Thank you. io d'offrir quello chi proverà Leon. Venghi un agnello. E per chi? Per colui che è un mio rivale. Sarebbe manco male dunque levar di vita quel birbone. E finita sarebbe la tenzone. Lo voglio sbidellar se fossi in mezzo alle più forti sguarre, se fossi ancora in braccio di sua madre. Donne, lasciarmi dire, e se ritrova la pellegrina che si chiama Vina, non può mancarmi la carità. Monsieur, donne, monsieur, guardi. Lasciate andare la gente per la sua strada. può saper chi siete? Questo è Mingone, non lo conoscete? Me ne andrò! Fermatevi! Chi siete voi? Un uomo disperato! Ho Drina cercato e non la trovo! E vuol sapere che cosa c'è di nuovo! Oh, lasciatemi andare! Zitto, amico! Noi siamo in un intrigo! Una donna mi par che la vi sia! Voglio sapersi la Drina mia! Di voi mi meraviglio e partir vi consiglio! Non parte fino a lì! Dove sono andati? Eccoli qui! Sento dell'altra gente! State zitta! V'ho trovato sul fatto! Questi è zitta! A te mi viene in mente di fare un colpo bello da prudente! Ma sotto lest mi ste! Mi non fuggite a te! Diese Versammlung macht mir keine Angst! Nun steckte sich fest die Brave! Das ist für ihre Einteilkeit die Strafe! Vengono i miei padroni, e vedo due bricconi che a gara in questa sera volevano rapir la cameriera. Tu ce l'hai dato, me la pagherai! Tu mi senti dal castigo, non andrai! E parlere domani, voi frattanto fate che siano ben chiuse le porte. Io non parlo, signore, per me sono innocente! Ai! Tu che facevi? Per difender Dorina io son venuto. Ed io veni per te solo in aiuto. Son bricconi a me due, lor non credete. Lo vedrete domani. Lo vedrete. Tremar mi fa, tremar mi che discreto.